Dialogo 25esimo. Raccontò Muaz: un giorno io e il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, eravamo in groppa a un asino, lui davanti e io dietro. Quando ad un tratto mi chiese: o Muaz, lo sai qual è il diritto di Allah nei confronti degli uomini e qual è il diritto degli uomini verso Allah? Io risposi: nessuno può saperlo meglio di Allah e del suo apostolo. Allora disse: il diritto di Allah nei confronti degli uomini è quello di essere da loro adorato in esclusiva, mentre il diritto degli uomini nei confronti di Allah è quello di non essere puniti se non gli hanno associato nulla nel culto di adorazione. Io gli chiesi: o apostolo di Allah, posso annunciare alla gente questa buona novella? Mi rispose: no, c'è pericolo che si adagino.